Sono. Eccoci qua, instabili come sempre. Ciao K. Ciao K, Come stai, K? sono ritornato dopo quella puntata in cui sono, ahimè, mancato e sono molto contento di essere nuovamente qui in compagnia tua e dei nostri ascoltatori. Chiamerò K Lazzaro. Sì, no, tra l'altro l'ultima puntata nostra risale, nostra mia, nel senso che tu non c'eri, ma insomma, risale a qualche tempo fa ormai, perché era prima di queste feste che fortunatamente sono anche finite. Ne approfitto come sempre all'inizio, visto che noi siamo anonimi ed estemporanei, un po' clandestini, su frequenze anche vagamente instabili e saltellanti, ne approfitto per ricordare che nella nostra presenza non promozionale siamo comunque da qualche parte. Il primo qualche parte, la prima parte in cui siamo è Telegram. Abbiamo un canale Telegram che si chiama Distopiche Stanchezze, in cui è possibile contattarci e commentare. Quindi, se ci seguite, ci sono gli annunci, per esempio, con il link della diretta, potete risponderci, potete interagire con noi. L'altro canale che abbiamo è su Mastodon, sul profilo stanche dist @nebbia.fail. non sto a rifare ogni volta tutto il discorso su che cos'è Mastodon, mi limito a dire che è un social network, network non commerciale in cui non vi rubano i dati, non vi rubano il tempo, non vi rubano la vita, e in cui potete interagire quindi in maniera un po' più umana con altri esseri umani attraverso la tecnologia. Ho finito il mio pippone. Sì, ricordiamo anche che chi ci ascolta, magari ci scopre con questa trasmissione, può ascoltare, mi pare, circa 5-6 puntate arretrate che sono disponibili in qualche modo, o sbaglio? Hai ragionissimo, infatti me lo stavo dimenticando. Sì, abbiamo una pagina sul Web Archive, la pagina si chiama banalmente Distopiche Stanchezze, così è anche facile, non vi dovete ricordare troppe cose, e potete ascoltare le puntate precedenti che sono andate in onda diciamo più o meno nell'ultimo paio di mesi, perché i primi esperimenti sono venuti fuori nella seconda metà di ottobre, quindi insomma stiamo ancora cercando di prendere forma in qualche modo. E poi, come ripetiamo spesso, queste puntate, queste trasmissioni, noi le pensiamo per essere ascoltate nei decenni a venire, quindi sono, non invecchiano, quindi andate, scoprite, riascoltate e godetene tutti. È bellissima questa cosa qui di questa tua disposizione, in qualche modo oserei dire ottimista, se non ti offendi. Ma infatti guarda, è una cosa che mi sorprende questo, mi sorprende. In realtà, come dire, è una cosa che al tempo è un po' come il gatto di Schrödinger, no? Che è vivo e non è vivo e contemporaneamente, cioè è una cosa ottimistica e anche molto pessimistica al tempo stesso, nel senso che c'è una tale, come dire, senso di insoddisfazione, di negatività nei confronti del presente, per cui uno con qualche modo sposta in avanti magari delle aspettative anche solo di ascolto nei confronti di questo programma. È interessante, perché in realtà poi è vero che c'è il discorso sul presente, quindi no, questa mancanza di questa difficoltà a relazionarsi col presente, ma c'è anche da dire che spesso nei discorsi, nella percezione attuale, c'è soprattutto anche un'assenza di futuro, quindi a dire ok, vabbè, esatto. non si vede un futuro davanti e quindi, si fa quello che si può. E c'è anche, se vuoi, un'influenza anche di quella di certa fantascienza distopica che a noi piace molto, dove praticamente si vede che dal futuro qualcuno torna indietro nel tempo per cercare di salvare le persone modificando il presente in modo tale che, perché nel futuro sanno appunto e riescono forse ad aiutarci, a farci uscire da questo stanco distopico presente. Allora, abbiamo messo già tantissima carne al fuoco, secondo me, e quindi io tirerei fuori una pillolina che tu, da cinefilo quale sei, mi hai passato così sotto banco in un sistema di messaggistica, e che adesso, come direbbe Guccini, andiamo ad ascoltare. This is the sound of a normal heart. Now listen to that same heart subjected to a night of total terror. Night of the living dead. The dead who live on living flesh. The dead whose haunted souls hunt the living. The living whose bodies are the only food for these ungodly creatures. Night of the living dead. A bizarre adventure in fear. An experience in shock more shattering than your strangest nightmare. Night of the living dead. A night of total terror. C'è stato un piccolo momento di paura dopo questa notte dei morti viventi. Kappa? Sì. Ah, ecco, sì, ok, sì, no, sì, mi stavo spaventando, stavo ancora di più. Perché? Qui eri rimasto solo nella notte. Capito, cioè uno poi si prende paura, no, perché voi dovete sapere, voi forse due persone che ci state ascoltando, dovete sapere che mentre la regia di questo accrocchio radiofonico è sempre un po' complicata, perché allora intanto io, Kappa e l'altro Kappa che è qui con me, siamo a svariate centinaia di chilometri di distanza. Per riuscire a mettere insieme le nostre voci in uno streaming, diciamo che non fosse una diretta YouTube o Twitch, perché è troppo facile così, Abbiamo macchinato un po' con gli strumenti e la tecnologia, anche con l'aiuto di varie persone che mi hanno dato una mano da crocchiare diverse opzioni, varie persone nel Fediverso. E quindi abbiamo questo svantaggio. Le due voci funzionano insieme, quindi noi riusciamo a parlare e voi ci sentite mentre parliamo. Ma tutto ciò che è frammento audio, canzone, suono, eccetera, lo metto io, perché sono io che gestisco la regia di questo accrocchio, e quindi in realtà K sente dei momenti di silenzio, che non so come sia sentirlo, se poi è anche inquietante forse. È inquietante, infatti prima o poi riusciremo a risolvere anche questo piccolo problemino. Comunque speriamo abbiate gradito questa chicca che viene dal lontano 1968, e questo era il trailer radio pensato proprio per le radio, che è stato mandato in onda all'epoca per promuovere il film di George Romero, La notte dei morti viventi, che è uno dei cult non solo della fantascienza, diciamo dell'horror, ma del cinema proprio tout court. E è un film che noi amiamo moltissimo e è nelle corde, nelle atmosfere. E poi torneremo, questa sarà una puntata in cui qualche altra, diciamo, suggestione, atmosfera cinematografica, no, più tardi. C'è molto cinema, ma in realtà avevo fatto tutta, poi è bello perché ci perdi, cioè io mi perdo, soprattutto tu mi sembri piuttosto invece concentrato e coerente, no, io mi perdo, e in realtà tutto il discorso che avevo fatto sull'accrocchio del tecnologico per far funzionare questa piccola trasmissione clandestina era derivato dal fatto che alla fine del frammento che abbiamo fatto ascoltare, La notte dei morti viventi, c'è stato un attimo di silenzio, poi c'è stato un altro attimo di silenzio in più perché K non mi rispondeva, quindi mi ero anche veramente preso paura, ma in realtà l'attimo di silenzio era derivato dal fatto che K, mentre, ma lui non lo sapeva perché non aveva non stava sentendo lo spezzone, mentre lo spezzone del film di Romero stava finendo, mi ha chiesto di mandargli un link, e quindi ho iniziato a cercare il link che gli dovevo mandare, e questo ha causato questo diciamo piccolo momento di non prontezza, di non preparazione. Questo non era un rimprovero indiretto, K, non prenderlo, diciamo così. Che questo è, diciamo, anche un piccolo frammento di meta radio. Quindi esatto. Vi stiamo facendo vedere anche il dietro le quinte mentre lo stiamo facendo. Esatto, sostanzialmente sì, distopiche stanchezze funziona anche un po' così, è il senso di capire cosa stiamo facendo e cosa ci sta succedendo. E a proposito di questo, visto che è un po' di tempo che non ci sentiamo, caro K, non lo facciamo, ecco, come stai, come va, raccontaci come vai. Beh, un periodo un po' di incazzature, nel senso che non è un momento facile per varie cose, diciamo, però questo sono felice di essere qui, che questa sia la prima puntata del 2022, e tra i buoni auspici di quest'anno io metto senz'altro quello di fare radio, tornare a fare radio come abbiamo fatto, quanto, 15 anni fa, 20 anni fa, non ricordo più, sì, un po' di nebbia. Sono, essendo che siamo nel 2022, forse potrebbero essere una ventina. Esatto, e quindi propositi del nuovo anno è proprio questo, perché fare radio per me, ma credo anche per me K, ma credo anche per te K. Anche me K e te K sono... Aggiunge anche per tutti i K del mondo, forse è una cosa. è una forma di resistenza, una piccola, chiamiamo, diciamo così, una piccola trincea psicologica in questi tempi difficili, dove insomma sembra che ci sia un po' un impazzimento generale. Sì, tra l'altro, anche la Terra, nel senso proprio specifico, il pianeta sembra che stia impazzendo. Non so se hai seguito, io sono rimasto colpito soprattutto dalle immagini satellitari che rimbalzavano un po' ovunque sui, non sui social network, perché l'unico che ancora è malamente è Twitter, dell'eruzione di questo vulcano nell'isola di Tonga. Non so se hai seguito. Sì. Io ti confesso che ho seguito pochissimo, ma ho visto le immagini. Le immagini dell'onda dell'esplosione che si espande e che sostanzialmente l'onda d'urto ha circolato su tutti, non so se l'onda d'urto sia il termine tecnico corretto, però ha circolato praticamente su tutto il pianeta e quindi sono state registrate delle variazioni di pressione atmosferica praticamente dappertutto, seguendo appunto quest'onda qua. E appunto tu parlavi di impazzimento e uno dei segnali che parla di questo impazzimento è sicuramente anche, forse, questa eruzione potentissima, anche se noi abbiamo la tendenza ad attribuire forse sentimenti e percezioni umane a chi umano non è, e quindi a dare una lettura che sia anche un po', non errata, ma un po' così, antropocentrica, tanto per usare dei paroloni un po' più complicati. Tutto questo discorso in realtà voleva andare a parare su qualcosa che credo di aver dimenticato, cosa che succede spesso peraltro nella nostra trasmissione. Non c'è nulla di pronto. Di preparato in questa trasmissione, sappiate, cari ascoltatori, questo è proprio il bello. Noi, cioè, è una modalità che, come dire, rivendichiamo, cioè, è una scelta. E quindi io mi inserisco, perché abbiamo parlato di un evento naturale molto grande come quello di questa eruzione, e mi è fatto venire in mente che ho acquistato, il primo libro che ho acquistato in questo 2022, un volume di uno scienziato che si chiama Sean Carroll, che si intitola Sulle origini della vita, del significato e dell'universo. Cioè praticamente tutto, cioè un titolo impegnatissimo. Semplice, però, infatti. Esatto, però a quanto pare dovrebbe anche portare delle risposte e quindi giustificare anche l'ambizione che è contenuta in un titolo di questo tipo. Posso farti una domanda? Sì. Quante pagine ha? Allora, è un tomo di 504, credo, 502 pagine, molto grande, per cui, insomma, di cose ce ne stanno. E infatti il sottotitolo di questo libro è Il quadro d'insieme, quindi si cerca un po' di parlare di tutto. E ve lo volevo citare perché noi 2-3 puntate fa abbiamo parlato molto di scienza, di fisica, astrofisica, dei misteri dell'universo, tutta una serie di... una puntata, diciamo, un po' cosmologica. Ecco, e un libro come questo, edito da Einaudi, ripeto il titolo, Sulle origini della vita e del significato dell'universo, è un libro che può aiutare a rispondere a qualcuna di quelle domande, di quelle questioni che sollevavamo, di cui abbiamo parlato nella puntata di 2 o 3 volte fa, per cui ci tenevo a segnalarvelo. Guarda, perché qui cerchiamo di dare qualche cosa. Io ti ringrazio per questo consiglio di lettura, esatto, che magari se mi fai un riassunto, che in realtà adesso ho talmente tante cose da leggere in questo periodo che posso metterlo in coda, ma richiederà sicuramente un po' di tempo, però visto che parlavamo di cosmologia, sì, io vorrei rilanciare, perché nella cosmologia non ci siamo solo noi, no? Nella cosmologia, appunto, c'è anche la Terra che sta avendo delle reazioni strane, ci sono gli animali, ci sono le piante, ci sono gli altri pianeti, gli altri sistemi, diciamo, solari, e quindi all'interno di questi sistemi magari ci sono pure delle creature extraterrestri. Sì. Esatto. Ecco, allora noi adesso andiamo a prendere un altro pezzettino che ci parla di questo spazio profondo. Non lo so. Matthew, ho vissuto per tutta la vita in questa città, ma in qualche modo oggi sentivo che era cambiata. La gente era diversa, non solo Jeffrey, ma tutti. Ieri sembrava tutto normale, oggi tutto lo sembrava ugualmente, ma non lo era. Era un incubo, era una cosa spaventosa. Come se la città fosse cambiata in una notte. T'ho mai raccontato quella del corpo dei camelieri inglesi? Lo sai? Mm-hmm. Accerchiati nel deserto del Sahara. Erano accerchiati da Rommel da 40 giorni, non avevano più viveri e... il capitano arriva e fa un annuncio agli uomini. e gli dice: uomini, ho qualche buona notizia per voi e qualche cattiva notizia per voi. E uno degli uomini dice: ah, aspetta, questa me l'hai raccontata. Ah. Beh, posso riraccontartela. Certo. Attento! Aiuto! No, no, no, mio arrivano, Dio. Lo sportello, bloccalo. Arrivano. Non dovremmo aiutarlo. Ascoltatemi. Arrivano, arrivano. Aiutatemi, ascoltatemi. Questo è pazzo da legare. È terrorizzato. Poi toccherà a voi. Vi prego, anche voi siete in pericolo. Vi prego, ascoltatemi. È una cosa terribile, vi prego. Toccherà anche a voi. Sono già qui. Aiuto, aiuto anche a voi. Arrivano. Deve aver fatto qualcosa. Arriva la polizia. Polizia! Elizabeth, svegliati! Ti prendono quando dormi! Alzati, Elizabeth! Alzati! Ti vuoi svegliare? Pronto, polizia. Voglio denunciare la presenza di 4 corpi nel mio giardino. Ti senti bene? Attenda in linea, signor Bennell. Come sa il mio nome? Riattacca, Matteo. Io non le ho detto il mio nome. Riattacca! Non gliel'ho detto il mio nome! Ci sono tutti dentro. Si sta allargando un macchia d'olio. Parlavamo di cosmologia e di e non possiamo non metterci gli extraterrestri. Extraterrestri, ma che sembrano molto molto molto terrestri in realtà. Questo spezzone che abbiamo sentito, che abbiamo ascoltato, è di un remake di un film, un classico della fantascienza, dove al centro c'è soprattutto la paranoia sociale, cioè un film che è stato letto politicamente, cioè gli extraterrestri in realtà sono persone che hanno perso l'umanità, quindi il conformismo, un film che è stato rifatto poi negli anni 70, nella versione che abbiamo ascoltato adesso, Terrore dallo spazio profondo, e poi è stato rifatto negli anni 90 da Abel Ferrara, grande regista, che noi amiamo molto, sempre con il titolo L'invasione degli ultracorpi, anzi Ultracorpi, l'invasione continua, perdonate, stavo sbagliando il titolo, ed è un film che io penso che anche nell'ultimo periodo che abbiamo vissuto tutti quanti si adatta molto bene, dove il conformismo, la paranoia, la paura degli altri soprattutto, e poi lasciatemelo dire, al di là della lettura che si può fare, in particolare di questo film qui, Terrore dallo spazio profondo, 1976 o 77, vado a memoria, potrei sbagliare, ma è un film bellissimo. Quindi proprio un film che lo guardi e vieni rapito, impaurito. Vieni rapito dagli alieni? Sì, sì, esatto. Tra l'altro con il protagonista, un magnifico Donald Sutherland, è davvero uno di quei film che non ci si stanca mai di vedere e rivedere e rivedere e rivedere. Il discorso sulla fantascienza è un discorso per me abbastanza interessante, perché se da un lato fino a un certo punto, fino a forse qualche anno fa, fantascienza, parlo in particolare della fantascienza occidentale, poi tutte le generalizzazioni sono sbagliate, quindi anche questa lo è, però in qualche modo la fantascienza era capace di prefigurare degli scenari, oppure di raccontare, diciamo, il negativo, inteso anche in senso fotografico, quindi quello che non si vede nella foto sviluppata, del presente, in maniera incisiva, in maniera efficace. Io credo che questa funzione della fantascienza si sia un pochino persa e si possa ritrovare probabilmente in narrazioni fantascientifiche non occidentali, che hanno e che possono portare uno sguardo diverso, quantomeno rispetto alla nostra sensibilità, alla nostra attenzione, alle modalità a cui siamo sempre stati abituati. Ma aggiungerei qualcosa in più. C'è un tripudio di narrazione fantascientifico, ma distopico, apocalittico, mortal, tutto quello che volete, e soprattutto appunto nella produzione di serie. E credo che però queste serie abbiano non abbiano la stessa forza o la stessa capacità di raccontarci il presente o anche eventualmente quello che ci aspetta rispetto a una fantascienza del passato. E questo perché uno degli elementi è che in fondo viviamo in un periodo in cui spesso la catastrofe si può vedere fuori dalla finestra, in qualche modo, quasi direttamente. E spesso però queste serie ci inducono a guardarla attraverso il filtro dello schermo del computer, perché c'è una narrazione che è stata confezionata apposta, e quindi noi guardiamo lì invece di guardare fuori dalla finestra, e allo stesso tempo ci sono dei personaggi all'interno di queste serie che, mettendo in scena una lotta, una reazione, un tentativo di resistenza, in qualche forma ci esentano dall'agire direttamente, dal prendere parte noi direttamente invece nel mondo reale, di fronte alla catastrofe reale che avviene fuori dalla nostra finestra. Non so se ha senso. Sono totalmente d'accordo con te. Mi sembra che hai fatto un'osservazione molto, molto lucida, vera. E credo che questo, allora, da una parte dipende dal fatto, rispetto a quello che era nel passato, che nel passato esisteva un'idea di futuro e oggi questa idea di futuro è sempre meno presente. E quindi la fantascienza, quella che prima esisteva classica, anche in Occidente in particolare, fa sempre più fatica a raccontare il futuro. E secondo me non è un caso che alcune delle opere più note che sono state fatte di fantascienza, penso come ai film come Dune, come Blade Runner, usciti negli ultimi anni, sono dei remake. Esatto, tra l'altro sul discorso del remake ci riallacciamo al discorso di prima dell'assenza di presente e dell'assenza di futuro. Il discorso della riproposizione di contenuti culturali del passato è un discorso che torna spesso, che è tornato spesso almeno negli ultimi 10 anni. Cito il nome di Mark Fisher perché è uno di quelli che forse l'ha trattato in maniera più incisiva, però sono in tanti adesso anche che se ne stanno occupando, quindi anche ritirando fuori il concetto di ontologia, quindi questo being haunted, quindi essere infestati, che poi è di derivazione derridiana, ma questo poi ci complica ulteriormente le cose perché ci porta nella filosofia, però proprio questa riproposizione del passato, di elementi culturali del passato, proprio perché non si è in grado di raccontare il presente, o forse non c'è più un presente da raccontare. O forse ancora, nel senso non in alternativa, ma diciamo in aggiunta di queste ragioni, è che il presente attuale è talmente bloccato, siamo talmente all'interno di un there is no alternative al pensiero, che è diventata addirittura impossibile pensarle le alternative, non solo provare a raccontarle o ad agire per un cambiamento. Per cui effettivamente in questi ultimi 2 anni è anche successo qualcosa che in qualche modo ha ulteriormente ristretto, no, gli orizzonti del possibile. Verissimo. E accentuato questa tendenza che tu appunto hai rilevato verso un tipo di spettacolo che è fondamentalmente autoreferenziale e alla fine un po' autoconsolatorio, per quanto ecco, possa... Esatto, io ci metterei un però, scusa se ti interrompo, metterei un però, e questo però deriva dal fatto che tu da qualche settimana mi stai parlando di un disco che ti è piaciuto tantissimo e che è uscito nel 2021. Sì. E allora, visto che fino adesso abbiamo messo degli spezzoni di cinematografici, ma è una mezz'oretta che stiamo chiacchierando e non abbiamo ancora messo musica, io inizierei con questo disco e poi dopo magari parliamo un pochino anche di musica, magari invece che attraverso la musica c'è qualcuno che riesce a raccontarci, a starci vicino anche in questo presente problematico, se sei d'accordo. Sono assolutamente d'accordo e spero di non aver frainteso il riferimento musicale, perché comunque se il disco che penso che tu stia per mettere ci stiamo incartando. Un disco che è magnificamente cinematografico, cioè ogni canzone in realtà sono dei piccoli film, e quindi c'è anche un legame con questo inizio cinematografico di questa puntata. Allora siamo d'accordo che sono gli Arab Strap. Sono gli Arab Strap. runs through the crowd, eyes black and loud, buttons missing from a soaking shirt, shades inside at night, he's a full-time flirt, cocksure and vain, he's a walking stain, powders in his pocket and dirt on his knees, puts an arm around you, says he aims to please. Just take a sip, just take a hit. You can't refuse, the fuse is lit. You know you want to let him lead your soul astray. Says he can make the night sing, and he's got just the very thing. He takes you by the nose and you sniff his sin. Takes you in the mouth on his knees by the bends, and then he's straight back to the bar. Just take a sip, just take a hit. You can't refuse, the fuse is lit. It's not a game you'll win, but how you love to play. And what has the night to do with sleep? No secret she won't keep. It's always sinful in the sunlight anyway. He's got his bloodshot eye on your sister, this rebel in rouge, this howling hipster. He's always in the dark, but he knows his way around. He's always talking pish, but he thinks he's so profound. All hail the false enchanter, raise a full cup to the rebel runner. He's got the double horn, leaving all the lovely ladies all lovelorn. And he teases and he toys with dumbstruck boys. We don't stand a fucking. There he goes through the crowd, unprincipled and proud, taking lots of numbers but he won't phone back. He's maybe wearing makeup but his tears are black. Devo dire che il ritorno degli Arab Strap, per me inatteso, ma è anche un po' che non bazzico i mondi musicali, è stato una gioia non da poco per il 2021. Davvero, davvero un disco bellissimo, un disco che se seguite minimamente un po' la musica è stato quasi all'unanimità eletto il disco dell'anno da moltissime testate e anche per me. Indubbiamente ci sono tantissime canzoni davvero davvero emozionanti, poi questi suoni in particolare di questa canzone mi hanno ricordato moltissimo un altro gruppo che amo la follia, ovvero i Sister of Mercy, queste atmosfere anni 80 con grande classe, davvero davvero un disco che consigliamo. Volevamo iniziare questa prima puntata del 2022 così, facendo ascoltare alcuni dei dischi che ci sono piaciuti di più, appunto, usciti nell'anno che si è appena concluso. Ma anche delle cose E vecchie, perché io stavo certo, pensando soprattutto alla esatto. dei Infatti, questo è il pezzi più primo, e ce ne vecchi. sarà un secondo che ascolteremo più avanti, e poi magari anche nelle prossime puntate, insomma. Sempre cercando un po' di separare, come si dice, il grano dall'olio, c'è tanta monnezza che tocca ascoltare, sentire e guardare, cerchiamo veramente di Le cogliere cose quelle belle. perle, esatto, e Esatto. valorizzarle per quanto si può. Allora, K, io vorrei ricordare comunque, se per sbaglio qualcuno ci sta ascoltando in diretta, perché poi sui podcast abbiamo dei numeri bassi, ma comunque un po' più alti. Se per caso qualcuno ci sta ascoltando in podcast, voglio ricordare che possiamo essere contattati. Il modo più veloce e diretto probabilmente è il canale Telegram di Stopiche Stanchezze, che ormai è un canale aperto e su cui potete commentare, quindi potete scriverci, potete mandarci un messaggio, dirci qualcosa. E l'altro canale che potete usare invece è il nostro profilo Mastodon, che è stanchediste chiocciolanebbia.fail. Nebbia.fail è uno dei nodi italiani delle istanze, sarebbe più appropriato chiamarle istanze italiane di Mastodon. Potete seguirci, potete contattarci. Di solito condividiamo, oltre ai link, alle dirette, ai podcast, ogni tanto anche qualche articolo, qualche link di approfondimento rispetto a temi che sono un po' il nocciolo di questa chiacchierata radiofonica, che sono poi anche riassunti nel titolo, cioè la distopia o le distopie e le stanchezze, le diverse forme di stanchezza che stiamo vivendo nel nostro. E a proposito di così, piccole segnalazioni, abbiamo parlato di cinema, mi piacerebbe anche di un libro. Vi voglio parlare di un altro libro che io sono felicissimo che sia uscito, perché è un autore che mi piace molto. Sto parlando di Michel Houellebecq. È uscito il nuovo romanzo, si chiama Annientare. Io non l'ho ancora acquistato, ma lo farò. E è un Houellebecq. autore che può, ovviamente, un autore molto, anche molto discusso, ma in ogni suo libro si trovano sempre delle cose che fanno riflettere. In questi giorni mi è capitato di leggere in rete questa bellissima citazione dal nuovo libro, e Houellebecq nel romanzo scrive: "È nel rapporto con gli altri che si prende coscienza di sé, ed è proprio questo a rendere insopportabile il rapporto con gli altri." Ecco, Questo già. è molto cioraniano, che torniamo sempre Esatto. fuori su uno dei nostri numi tutelari. Io ho letto, devo ammettere, molte critiche negative a questo ultimo romanzo di Houellebecq, e in particolare la sensazione che questo suo disagio esistenziale prenda sempre più i toni rancorosi della reazione. Se mi segui nel ragionamento. Io è un po' che non lo leggo, devo ammettere, mi sono fermato tanti anni fa. Però appunto come questa posizione, no, di difficoltà esistenziale, no, di cioraniana, di mancanza di senso, eccetera, si stia articolando, si stia arroccando in una posizione forse un po' più arida, difensiva e in questo reazionaria. Però ribadisco, non ho letto il libro e quindi non posso esprimermi su questo libro qui, diciamo. Sto riportando Certo, ma infatti considerazioni sul dibattito. ci sono appunto questo tipo di critiche, di letture. Io quello che credo, che sono in parte vere, dico solo questo, che credo che comunque con Houellebecq bisogna sempre andare oltre alla lettera. Cioè c'è una Certo. trama, ci sono dei riferimenti. Cioè, Kappa. Abbiamo perso un K ed io sapevo che c'erano delle questioni di film dell'orrore che in qualche modo stavano incombendo sopra di noi. Vediamo se riusciamo a recuperare K. Non so cosa sia successo e risolvere i problemi di regia a distanza è complicato. Probabilmente K ha qualche problema di connessione perché è anche sparito dalla mia regia. Adesso sta riapparendo. K, sei tornato tra noi. Eccoti. ecco, un piccolo problema tecnico, chiedo scusa. No, tra l'altro io stavo pensando perché abbiamo iniziato con la La notte dei morti viventi, siamo passati al terrore dallo spazio profondo, poi tu a un certo punto mi scompari all'improvviso. Ora, chi ci ascolta può pensare che sia stato addirittura qualcosa di preparato. No, in realtà no. I problemi tecnici sono all'ordine del giorno in queste improvvisazioni. Come è stato? Ti hanno rapito gli alieni? Dove ti hanno portato? Hanno fatto dei test sul tuo corpo, sulla tua mente? Guarda, io su questa cosa, guarda, degli alieni, cioè dei rapimenti, io ti dico la verità. Dimmela. Io sarei contento di essere rapito come, però come dipende, esperienza. Dipende da cosa ti fanno, perché in tantissimi casi diciamo coloro che pretendono di essere stati rapiti dagli alieni raccontano di test, di situazioni dolorose, di operazioni mediche. Potrebbe non essere così piacevole. Io, guarda, per curiosità direi di sì, ma fondamentalmente perché, come dire, sono molto scettico su tutti i racconti che si fanno, scettico, proprio, non credo a una parola di quelli che, ovviamente, per cui, diciamo, ho un atteggiamento estremamente laico nei confronti delle forme di vita, se ci fossero e vengono qua, ben vengano, li vedremo, fino a quel momento, vabbè, non mi fa né caldo né freddo, al limite così posso fare, diciamo, leggevo. Vai, fai la battuta, poi ne riporto un'altra. No, se si può, no. Un po' forse maschilisca, ma forse l'unico elemento di interesse può essere... Ma da, le aliene. Ci sono delle belle forme di vita nell'universo, poi per il resto... Lo sapevo che... Quando arriveranno li vedremo che, e basta. Che insomma, si va, cioè, sempre a parare lì. No, in realtà la battuta che volevo fare io mi è capitata oggi sotto nel Fediverso, non saprei neanche... esattamente dire dove o come, ma credo fosse una vignetta di Calvin e Hobbes, e in questa vignetta c'era Calvin che giustamente diceva: uno dei segnali più evidenti dell'esistenza di forme di vita intelligenti nel cosmo è il fatto che non ci abbiano ancora contattato, cioè che non siano ancora venuti da noi, perché noi non siamo evidentemente all'altezza della loro intelligenza. Giustamente, si tengono ben alla larga. Esatto. E vabbè, insomma, io per cercare di... Visto che appunto siamo... C'è questa onda, no, che ci porta dal terrore all'alieno, al rapimento, alla... Io proverei, se qui la tecnica me lo consente, proverei invece a mettere un altro pezzo musicale, che è un altro dei tuoi album preferiti del 2021, se non sbaglio. Sì, esatto. È bellissimo perché tu lo sai senza che io ti dica il nome, questa cosa è splendida. C'è una forma di telepatia. Sì, anche perché sono due, uno chiamiamoci. No, era chiaro. lo so, però era bello anche questo. Poteva essere così una... No, invece me l'avevi dato e quindi chiaramente... Vuoi dirci qualche cosa su questa canzone prima di ascoltarla poi? Sì, è una cantautrice americana, si chiama Marissa Nadler, ormai è diventata una delle voci, una delle cantautrici più insomma, riconosciute, importanti che ci sono nella musica di oggi. Ogni album che fa è sempre un grande piacere per l'ascolto, questo in particolare è tra le cose migliori che ha fatto, e da questa canzone potete farvi un'idea. Brand new. Tra l'altro, a proposito di cinematografia, anche questa canzone ha una sua fortissima valenza cinematografica. Stavo guardando il video. E si intitolava Couldn't Have Done the Killing. E volevo così farti chiedere se per caso avevi notato qualche somiglianza, vicinanza con un gruppo che so che tu apprezzi molto, che anche loro sono molto cinematografici e sono su questi suoni, i Kalla. I Kalla, tra l'altro si vociferava che anche loro stessero per far uscire qualcosa di nuovo. Esatto, confermo, hanno ripreso, sono tornati diciamo sui social, in particolare su Instagram, stanno pubblicando frammenti, video del passato e sono al lavoro su un nuovo disco. Ma ci sono già delle date? Che tu sappia? No, ancora no. Peccato. Purtroppo ancora nessuna data, però a quanto pare insomma, uscirà. Tra l'altro io ho visti dal vivo più volte e ho apprezzato molto anche il suo lavoro da solista, adesso del cantante, adesso mi sfugge, Aurelio Valle. Valle, esatto, questo nome è tutto italiano. Che tra l'altro ha fatto un singolo con l'ex cantante dei Cardigans, se non sbaglio. Bravissimo. Un singolo molto bello, che quasi bello. Potremmo andare a recuperare per metterlo tra un po'. Una delle prossime puntate, davvero. Ma anche tra un po', magari come pezzo di chiusura, adesso vediamo. Se ritrovo gli archivi infiniti. Nina Persson, sì, esatto, Electroglide. Esatto. E quindi questa sera ci muoviamo così, tra musica e cinema e alieni, perché anche quelli fanno sempre parte. E non solo alieni. Ecco. Cioè, parlando di creature misteriose o creature anche di cui non si conosce bene l'origine. Qui ti volevo. Non si sa bene da dove siano saltate fuori, a un certo punto siano comparsi. Ad esempio, in una cittadina europea e creature che non si capisce bene chi siano. Le ascoltiamo, queste creature? Le ascoltiamo, sì. Questo foglio. Con benevolenza e volontà di leggere. Giorni fa avevo seminato, con le piantine di crescione, il mio nome per intero. Era venuto tutto quanto molto bene. Mi aveva dato una gioia talmente grande che ora non riesco nemmeno a descriverla. E ieri, ritornando dal giro in barca, ho visto che qualcuno era entrato nel giardino ed ha calpestato completamente il mio nome. Allora io ho pianto. Per molto tempo. Però io voglio di nuovo seminare il mio nome. oggi mi sono sognato. Davvero hai sognato? Che cosa? Racconta. Sì, mi sono sognato. Sono felice che tu stia facendo dei progressi. Prima eri convinto che tutto quello che sognavi fosse sempre realtà. Soltanto 2 settimane fa, per esempio, hai detto di aver visto passare la moglie del sindaco, mentre invece sapevamo perfettamente che lei era partita già da molto tempo. Che strano. È davvero molto strano, Caspar, che tu non abbia mai sognato durante tutti quegli anni di prigionia. Mi sono sognato del Caucaso. Ecco quello che mi sono sognato. Così introduciamo anche l'elemento del sogno e lo scontro tra il sogno e la realtà. Esatto. K, tu la sai lunga. E non solo, prima parlavamo di futuro, futuro che non c'è più. Forse siamo tutti in questo ultimo, diciamo, in questo periodo, un po' come Kaspar Hauser. Abbiamo ascoltato questa scena molto molto commovente. Ogni volta che vedo questo film veramente è un film molto molto molto che tocca nel profondo. Ecco, forse siamo tutti un pochino Kaspar Hauser, no? In questo momento, e tutti quanti magari stiamo sognando anche noi il Caucaso, un altrove, un qualcosa diverso, un qualcosa di che vada oltre questo deserto del presente in cui siamo rinchiusi da troppo tempo. Tra l'altro, nella relazione, anzi, il discorso sulla relazione tra sogno e realtà mi porta a ragionare, cioè mi ha fatto venire in mente un'ipotesi che diciamo è accreditata come tale anche all'interno della ricerca scientifica, tanto da meritarsi alcuni articoli su riviste, come dire, peer reviewed, quindi anche affidabili, appunto, che analizzano questa ipotesi. E l'ipotesi è che noi, nel senso il nostro mondo, noi stessi, le nostre interazioni siano una simulazione che viene da un'intelligenza artificiale che potrebbe essere talmente avanzata da diventare simile a una divinità, per esempio. E questa cosa qui mi riporta, mi fa venire in mente, cioè, per me c'è un legame con il mondo dei sogni, soprattutto anche perché negli ultimi anni la ricerca sul sonno e sui sogni è avanzata moltissimo. E ci sono degli elementi che sono estremamente interessanti da esplorare, come ad esempio il discorso dei sogni lucidi, quindi i sogni in cui non solo si è coscienti di sognare, ma si può agire la propria volontà all'interno del sogno, che tra l'altro ci porta, e poi fermo questa lunga divagazione, ci porta a ritrovare dei contatti con antiche tradizioni buddiste, per esempio, in cui c'erano già millenni fa una disciplina di yoga e di meditazione per favorire il sogno lucido, quindi il sogno in cui la persona, il monaco in questo caso, era cosciente all'interno del sogno, e fare meditazione all'interno del sogno per portare così la propria coscienza a uno stadio ancora più elevato. Forse nel libro che citavi all'inizio qualche accenno di risposta, se non di risposta, almeno qualche pista di indagine potrebbe esserci, chissà. Sì, esatto, anche su questa ipotesi qui. Infatti, come dire, se ne parlerà sarà, come dire, un elemento positivo, cioè spero che ne parli, perché effettivamente è molto affascinante. E anche a proposito del sogno, l'idea che sia il sogno la vera realtà e tutto il resto sia semplicemente una base materiale che permette poi di produrre il sogno, no? E quindi noi quello lo consideriamo spesso così, come una sorta di così, piccola parentesi notturna, no? Una sorta di E tra l'altro, se la realtà fosse quella, vivremmo delle realtà molto più interessanti o diversificate, quantomeno, perché non è che, almeno credo sia raro che uno sogni sempre la stessa cosa, per esempio di svegliarsi tutti i giorni nello stesso posto e tutti i giorni mettersi davanti al computer per 8-10 ore a lavorare. Esatto, O se ci almeno. pensi anche è la cosa forse più democratica che esiste, ovvero il diritto a sognare quello che uno vuole senza almeno quello mentre si dorme, lo possiamo fare. È un piano di realtà che, meglio, lo dico diversamente, è come se la materia finalmente sia riuscita in qualche modo a superarsi, no? A superare i propri limiti, creando una dimensione che va oltre tutto ciò che è fisico ed è totalmente onirico, mentale e Però fantastico. ci sono degli studi che ragionano sulla possibilità di influenzare i sogni, di indurre determinati sogni. Sono molte cose, alcune le ho seguite, ne ho lette, cose che sono un po' embrionali ancora, che si basano spesso sulla suggestione prima del sonno, a volte sul condizionamento attraverso una serie di LED luminosi anche durante il sonno per cercare di portare, per esempio, il cervello della persona che sta dormendo verso stati di coscienza. Però ci sono anche degli interessanti esperimenti di comunicazione tra chi dorme ed è in un sogno lucido e il ricercatore che lo sta osservando dormire nel sogno lucido. E per ora, diciamo, le ultime cose che avevo letto, ma sono ricerche abbastanza recenti, l'unico modo di comunicazione che c'è tra chi sta facendo un sogno lucido e chi è fuori e lo sta osservando è il movimento degli occhi. Quindi di solito si comunica attraverso il movimento degli occhi per cercare di comunicare tra una persona che dorme ed è all'interno di un sogno lucido e la persona che invece sta facendo la ricerca per cercare di ricerca per cercare, quindi, di capire qualcosa su questo mondo dei sogni che rimane ancora ben lontano dall'essere compreso e capito. Lontano, ma sempre più vicino per noi che ci accingiamo, penso, quasi alla conclusione di questa trasmissione. E magari nella prossima puntata vi racconteremo che cosa avremo sognato dopo questa puntata. Potrebbe essere una cosa interessante, anzi, tra l'altro potrebbe essere interessante fare un programma radio sui sogni tout court, raccogliendo i sogni delle persone. Questo potrebbe essere una cosa interessante. Tra l'altro stavo pensando, Nel stavo titolo ci guardando. sarebbe già. E non è distopiche stanchezze. No, ho sognato il Caucaso, Ho che sarebbe sognato il un omaggio Caucaso. È vero, a è questo giusto, è film, giusto. che voglio ricordare il nome del regista, il Werner Herzog, un autore che è molto, molto distopico, ma non stanco, o Beh, era molto, anche un po' molto fatta. fuori di testa, Herzog, dai, possiamo dircelo. Sì, Lo è però ancora, è un po' è quell'essere fuori quel che però ha una pizzico capacità di di follia. visionario, visionario Esatto, veramente. visionario. No, tra l'altro, dicevo, stavo guardando OBS Studio per la diretta e questa piccola mia regia qui sullo schermo. E che mi dice che è passata un'ora e 6 minuti, sono passati un'ora e 6 minuti da quando abbiamo cominciato la diretta ed è una cosa interessante perché poi quando io vado a fare i montaggi per il podcast, di solito dico, mentre ascolto, mi sento dire sono 57 minuti che stiamo andando, eccetera. E poi in realtà, visto che taglio un po' di ripetizioni, di silenzi, di rumore, insomma, cerco di ripulire un pochino, fare un editing minimo per mettere poi la puntata disponibile e i tempi ovviamente non corrispondono mai perché a forza di tagliare 2 secondi qui, 1 secondo là, si accorcia un sacco e quindi c'è anche una strana percezione relazione con il tempo tra la diretta e la differita, così che può essere anche, può ricalcare, visto che stiamo parlando di sogni, la differenza nella percezione del tempo tra i sogni e la realtà, per esempio. Sì. Ma non so se ha senso poi, perché... Ok, allora, ci avviamo alla chiusura e quindi ci avviamo... Io tra l'altro mi sono messo avanti, ho già bevuto una camomilla un'oretta fa, forse adesso potrei addirittura berne un'altra per vedere di conciliare. Prima dell'inizio della trasmissione o durante? No, prima, infatti probabilmente si sente, oggi sono stato anche un po' addormentato, non sono stato molto... molto attivo. Vabbè, comunque. No, perché solo dici magari uno fa con un bicchiere di vino, una... Beh, no, in realtà era... Così, un po' una domenica sera di gennaio, fuori fa freddo, ci sta una tisana calda, una camomilla calda. Visto che dicevamo stiamo per chiudere, ricordo di nuovo che potete contattarci se volete, potete farlo in realtà anche al di fuori dei momenti di diretta. E potete farlo sul canale Telegram di Stoiche Stanchezze, dove potete commentare i post e quindi interagire direttamente con noi. E potete farlo sul nostro profilo Mastodon, che è stanchediste@nebbia.fail. Come all'inizio mi ricordava K, abbiamo anche una pagina su Archive che si chiama Distopiche Stanchezze, e su questa pagina trovate i podcast e troverete anche questo quando avrò trovato il tempo di fare l'editing di cui parlavo prima e di caricarlo online. Ma tutte queste informazioni le trasmetteremo anche su Telegram e su Mastodon. Credo forse che tu abbia in serbo ancora un brano musicale? Oppure... Bah sì, giusto perché prima l'avevamo citato e mi sembrava un brano anche abbastanza dolce e sognante per chiudere questa puntata. Il brano è proprio quello di Aurelio Valle, il cantante dei Cal, il suo album solista, che ormai è uscito forse 6, 7, 8 anni fa, da quelle parti lì. E, da questo album aveva fatto uscire un primo singolo, Ti stanno di nuovo rapendo gli alieni, K. Ho sentito dei suoni strani di astronavi. È la mia poltrona. Okay. Ho fatto un rumore. Ti stai facendo rapire dalla poltrona, che mi sembra anche l'ora giusta. No, dicevo, Aurelio Valle ha fatto uscire questo disco solista dopo la fine della prima parte, a questo punto, visto che hanno ricominciato a lavorare insieme, la prima parte dell'avventura dei Calla, e ha fatto un singolo con Nina Persson, che è stata la cantante dei Cardigans, è stata conosciuta come la cantante dei Cardigans. Il pezzo si intitola Electroglide, è molto bello, è molto, per me, anche malinconico e, come dicevo prima, appunto, conciliante il sonno e il sogno. Quindi a questo punto non resta che augurarci e augurarvi buon sonno e buoni sogni, anche se poi nel podcast ci state ascoltando alle 7 di mattina, ma magari potete tornare a dormire, anche se ci state ascoltando a un'ora strana e indifferita. Se vi piace quello che ascoltate, diffondete, come fosse un virus. Ecco, ritorniamo, ci vorrebbero Mulder e Scully a questo punto per aiutarci a districare tutti questi fili che abbiamo teso e ingarbugliato durante questa puntata. K, buon sonno e buoni sogni anche a te. Altrettanto. Cerchiamo di non fare la prossima conversazione a due tra un mese, magari cerchiamo di organizzarci tutta questa confusione, in tutti questi impegni e tempo dedicato al lavoro, cerchiamo di risentirci presto e di farci risentire presto. Ti propongo già una data. Ho paura, vai. Sabato prossimo. Ok, così. Ma perché così. No? Sì, va bene, dai, mettiamola così, lanciamo... Sì, anche gli ascoltatori si tengono liberi. Si tengono liberi per sabato 22, giusto? Sì, sabato 22 gennaio. Ma ok, perché no? Ci sentiamo presto, allora. Buonanotte. Buonanotte. Your dreams, my breath. Grazie.